Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Continuiamo il nostro viaggio nel futuro alla ricerca delle più importanti ricadute dell'intelligenza artificiale. Questa sera ci chiediamo come trasformerà la manifattura. Oggi, quando si parla di intelligenza artificiale in fabbrica, l'attenzione è per lo più concentrata su temi come la gestione dei magazzini tramite droni, l'applicazione della computer vision e quindi della visione artificiale in ambiti come per esempio il controllo di qualità, l'utilizzo della realtà aumentata nella manutenzione. Ma da molti punti di vista queste innovazioni sono in continuità con la progressiva informatizzazione alla quale assistiamo da molti anni, così come l'utilizzo dei robot. Ebbene, qui a Smart City vogliamo invece domandarci se dobbiamo aspettarci dei veri e propri cambi di paradigma nel modo in cui produrremo i beni in futuro. Ne parliamo con Michele Missikoff, associato senior presso l'Istituto di Analisi dei Sistemi ed Informatica del CNR e consulente della Commissione Europea per l'innovazione tecnologica nelle piccole e medie imprese. Buonasera Missikoff. Buonasera. Allora senta, iniziamo da qualcosa che si inizia già a vedere, qualcosa che ha a che fare con la dimensione predittiva dell'intelligenza artificiale che abbiamo spesso sottolineato qui a Smart City. Per esempio relativamente a come cambia il modo di fare manutenzione. Sì, in effetti la manutenzione predittiva è qualcosa che sta prendendo sempre più piede perché è uno degli aspetti tra l'altro più critici e costosi nell'impresa. Quindi col diffondersi di quella che viene chiamata anche Internet delle cose e quindi oggetti intelligenti dotati di capacità e di sensori di vario tipo che possono rilevare temperatura, vibrazioni, rumore e anche la parte ottica con videocamere, ci sono dei metodi basati appunto su tutti i dati raccolti e quindi anche sul cosiddetto machine learning, quindi macchine che apprendono, che possono riuscire a prevedere dei guasti in arrivo e a individuare anche quale parte, ad esempio, di un apparato di produzione, di manifattura, potrebbe guastarsi e con quale probabilità e con quale lasso di tempo. Ecco, quindi questo è un aspetto molto importante, a mio avviso. Perché consente, insomma, di intervenire prima del patatrac e quindi di dover magari bloccare gli impianti per lungo tempo. Ecco, il cambiamento più profondo che l'intelligenza artificiale potrebbe introdurre non riguarda però forse la singola fabbrica, ma le filiere produttive nel loro complesso. C'è l'idea, mi corregga se sbaglio, che la manifattura stessa possa diventare una specie di commodity. Ci spiega? Sì, certamente. Allora, questo diciamo si riaggancia anche con la cosiddetta manifattura cloud e con l'estrema flessibilità che consente al sistema produttivo di produrre con forti livelli di automazione, quindi robotica, droni e quant'altro, anche cose molto diverse tra di loro, quindi differenziare i prodotti ottenendo però con l'automazione quella che viene chiamata spesso la personalizzazione di massa. Cioè la commodity è qualcosa che io acquisto senza pensare troppo alla differenziazione. Quando la differenziazione diventa così ovvia, così facile da realizzare, si ha questo paradosso, cioè che non è più rilevante e quindi anche prodotti che apparentemente diciamo sono differenziati sono talmente raggiungibili, talmente acquistabili facilmente, producibili facilmente, che possono essere equiparati al concetto di commodity. Ecco, ma mi faccia capire, oggi noi come dire usiamo il cloud per i dati, no? Per cui io devo conservare un file, lo butto in questo contenitore e si preoccupa lui di risolvere tutti i problemi, dove lo metto, quante copie faccio, come assicuro l'integrità dei dati, come assicuro la privacy, eccetera, eccetera. A me non interessa come questa nuvola risolve il problema, mi interessa che quando voglio posso ritirare giù il mio file. Ecco, mi pare di capire che qui potrebbe succedere una cosa simile sui prodotti, cioè io butto un progetto dentro una nuvola produttiva, lì dentro l'intelligenza artificiale decide come risolvere il problema di assemblare le sottoparti, produrle, eccetera, eccetera, e ricevo un prodotto. È una prospettiva realistica? Ma direi che si va direttamente, sicuramente in questa direzione, e qui c'è un altro processo che viene detto, si usa il termine servitizzazione della manifattura, cioè questo è un fenomeno anche desunto dalla produzione del software che diventa sempre più flessibile, e quindi anche nella manifattura avremo più che impianti di produzione, avremo unità che offrono dei servizi di manifattura, e questi servizi verranno assiemati appunto da meccanismi di intelligenza, diciamo, più alta della singola unità, e verranno messe insieme, verranno sequenziate sulla base dell'ordine che è stato emesso e per il quale bisogna produrre qualcosa, e quindi questo è un po' il meccanismo nuovo che sta emergendo: estrema flessibilità, concetto di servitizzazione, quindi di pubblicazione sul web ad esempio dei servizi di manifattura che vengono cercati, recuperati e coinvolti nel processo di manifattura, come questo avviene tipicamente con i servizi software. Al volo, praticamente. Senta, che cosa deve accadere perché questa prospettiva possa realizzarsi, al di là delle tecniche di intelligenza artificiale e del loro sviluppo? Ma sicuramente degli standard di cooperazione tra i vari macchinari, tra i robot, tra le unità intelligenti, eccetera. Senza uno standard le macchine non possono collaborare, in gergo diciamo interoperare. E poi vorrei aggiungere anche un aspetto che è quello della cultura e della formazione delle persone che lavorano con queste macchine. Anche questo è sempre più importante per evitare poi rimbalzi di tipo occupazionale e di tipo sociale. Va bene, allora grazie Michele Missikoff. Grazie anche a lei di questa opportunità. Ci fermiamo qui, cari ascoltatori. Appuntamento a lunedì.